XXXIO on the mix, on the mix. Questa è radio XXX ancora di noi, on the mix, on the mix. Questa è radio XXX, oh, oh. Radio XXX, oh, oh. Radio XXX, oh, oh. Radio XXX, oh. Radio XXX, tra X come ad Amsterdam e ti sale la botta. Questa radio è per chi ha la fotta. Rap, rap, hip hop, underground. Massimo rispetto a Pino che impompa il nostro sound. Io sono Bribla, senti il mio flow. Con Radio XXX siamo pronti per lo show. Quindi alza il volume che iniziamo, perché l'hip hop non muore se noi continuiamo. Dino, Dino, on the mix, on the mix. Questa è Radio XXX ancora. Dino, Dino, on the mix, on the mix. Questa è Radio XXX, oh, oh. Radio XXX, oh, oh. Radio XXX, oh, oh. Radio XXX, oh. Radio XXX. Oh, Bino, ma questo me la passa in radio o su YouTube?